Bisogna sottolineare che si pone il problema che può uccidere il gatto. Si spera che tutti siano onesti. Detto questo, la mia risposta è che non lo so. Succede. Caccia al fotone. Interferenze scientifiche in Creative Commons. A cura di Fabio De Sicò. E benvenuti cari ascoltatori alla puntata numero 180 di Caccia al Fotone, il podcast scientifico che ogni settimana vi intrattiene con amene discussioni su scienza e dintorni. Su internet ci potete trovare al sito www.caccialfotone.it. Questa settimana ci occuperemo di econofisica e matematica statistica. Se interpelliamo Adam Smith ci dirà che è un sistema che autocorregge i propri errori. Se interpelliamo Karl Marx ci dirà che è un sistema profondamente ingiusto da superare. E se invece interpelliamo John Keynes ci dirà che è un sistema che ha bisogno dall'esterno di interventi pubblici. Di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando fondamentalmente del sistema economico. Il sistema economico è strutturalmente, come ognuno sa, un sistema matematico-statistico. E allora, cosa meglio di un approccio fisico può essere utile per studiare un sistema statistico-matematico? Questa cosa esiste, si chiama econofisica e ne parleremo appunto questa settimana col professor Stefano Baglietti, docente di sociologia, modellizzazione e simulazione presso il Politecnico di Zurigo. Buongiorno Stefano. Salve a tutti. Stefano, con te parleremo appunto di econofisica come abbiamo già introdotto, ma soprattutto cercheremo di analizzare un paper pubblicato qualche giorno fa su Archive intitolato Fundamental and Real World Challenges in Economics. All'interno di questo paper si prova ad analizzare il sistema economico con l'approccio dell'econofisica. E allora a questo punto lascio a te la parola per le 100 parole iniziali, all'interno delle quali mi piacerebbe che tu spiegassi e riassumessi un pochino il contenuto di questo paper che andremo a spulciare meglio, a sviluppare meglio nel corso della trasmissione. A te la parola. Ok, grazie. Il paper riguardo fondamentali sfide per l'economia è stato pubblicato su Archive e su una rivista chiamata Science and Culture, una rivista indiana. Il contenuto di questo articolo, a mio avviso, è molto importante perché cerca di mettere in evidenza quali sono i punti deboli dell'approccio prevalente che viene usato nelle scienze, discipline economiche. In questo articolo non vogliamo forzare né proporre delle soluzioni immediate, noi vogliamo più che altro porre l'attenzione su di esse e far sì che vengano riconosciute come tali, ovvero come punti deboli che sono potrebbero permettere di arrivare a delle conclusioni che sono fondamentalmente distorte e sbagliate. Noi proponiamo un approccio multidisciplinare tra scienziati di diverse discipline, che siano economiche o fisiche o biologiche e informatiche. Stefano, a questo punto ci andiamo ad ascoltare il primo pezzo musicale, poi torniamo in studio e quando torneremo in studio cominceremo ad analizzare appunto questo paper, soprattutto cercheremo di capire come mai l'approccio dell'econofisica è un approccio corretto per analizzare un sistema complicato e complesso come il sistema economico. A dopo. Al mio segnale, scatenate l'inferno. That you are human, a father, mother, daughter, son, a nation and a history. Your future's waiting, past is gone. And you think that you've been born, and you think that you will die. Imagine that all this may be just a lie. Farewell to sorrow and farewell to pain. They cannot reach me, I'm out of the game. You think that at you as human. You're clever, clumsy, fast or slow. You're living down on Elwood Street and you're working at a show. Your future is already planned. You think that life is in your hand, but suddenly you realize in the end it's just a joke. Farewell to sorrow and farewell to pain. They cannot reach you. You're out. You're out of the game. Whoa. Ed è sulla coda di Farewell to Sorrow di Stephanie Berger che torniamo all'interno di Calcio Fotone, all'interno di questa puntata in cui ci stiamo occupando di matematica, di statistica, ma meglio ancora ci stiamo occupando di econofisica, e ce ne stiamo occupando insieme al professor Stefano Baglietti, docente di sociologia, modellizzazione e simulazione presso il Politecnico di Zurigo. Ce ne stiamo occupando appunto insieme al professor Baglietti perché lui è il primo autore di un paper pubblicato qualche giorno fa su Archive intitolato Fundamental Real World Challenges in Economics. All'interno di questo paper si prova ad analizzare il sistema economico, tutto il sistema economico, tutte le variabili del sistema economico attraverso l'approccio dell'econofisica. Ecco, la domanda, Stefano, che ti voglio fare all'inizio della trasmissione è questa: se dovessi spiegare a un bambino di 10 anni o 15 che cos'è l'econofisica, come gliela spiegheresti? Ma facciamo 15. Diciamo che l'econofisica è un nuovo approccio che cerca di usare i metodi comuni o derivati dalla fisica all'economia. Essendo la fisica uno strumento abbastanza generale, questi metodi possono essere applicati all'economia o altre discipline come la sociologia o lo studio del traffico o dei comportamenti umani in generale. Quindi, dicendola in parole semplici, questo è uno strumento per dare a discipline che hanno avuto fino ad ora un approccio qualitativo un approccio invece quantitativo. Esattamente, questo è oggigiorno più che mai necessario e possibile. Si è verificato quello che è stato da molti definito un diluvio di dati, ovvero sono disponibili per lo più gratuitamente in maniera accessibili con una semplicità che non è stata mai riscontrata prima d'ora, un'enorme quantità di dati sopra il comportamento delle persone e sopra il comportamento dei sistemi economici. Se riuscissimo a sfruttare l'informazione contenuta in questi dati, cosa che nella fisica è stata fatta per anni, potremmo sicuramente cercare di comprendere molto di più di altri sistemi che in passato erano stati studiati soltanto con un approccio qualitativo o principalmente con un approccio qualitativo. Bello, Stefano, anche sentire un pochino la tua voce, che oramai ha difficoltà a dire le parole italiane. Oramai è tanto tempo che stai a Zurigo, quindi tutto questo è piuttosto normale. Torniamo però un attimo a noi, soprattutto al paper e meglio ancora all'approccio metodologico che avete utilizzato. Questo approccio è un approccio particolare sul quale state lavorando da un bel po' di tempo. Come si chiama questo approccio, soprattutto se ha un sito, e quali sistemi è destinato ad analizzare nel futuro? Stiamo cercando di lanciare un progetto europeo chiamato Futurist o Future ICT, che riguarda l'utilizzo di tecnologie informatiche per l'analisi di grandi quantità di dati. Questo progetto dovrebbe partire tra un anno o due, cioè sarà finanziato dall'Unione Europea e si presenta come il più grande finanziamento da parte europea nel campo delle scienze sociali. Questo vuole appunto cercare di proporre un approccio quantitativo in questi campi. È un progetto molto largo e sono coinvolte istituzioni da tutto il mondo, principalmente in Europa perché è un progetto europeo, ma abbiamo contatti con l'America, il Giappone, il Sud America anche, abbiamo un sito internet di cui fossero più interessati, è futureict.eu. Senti Stefano, nel fuori onda mi spiegavi che il vostro approccio è fondamentalmente un approccio interdisciplinare. Da qui però ne viene fuori una domanda: perché fate della interdisciplinarietà uno dei punti cardine del vostro metodo? Ah, l'interdisciplinarietà è fondamentale, soprattutto perché normalmente non è quello che si insegna agli studenti, dalle scuole superiori all'università, siamo più o meno inquadrati e cercare di pensare che una disciplina, quando la si studia, ha dei confini ben precisi, ma ciò è quanto sbagliato. Anzi, si dovrebbe cercare di vedere le connessioni tra le varie discipline, cercare di cogliere tramite gli strumenti provenienti da un'altra disciplina ciò che in realtà manca o non c'è concesso di vedere con gli strumenti della nostra, o perché siamo stati allenati, siamo studiati per vedere i problemi da una certa prospettiva, e questa visione complementare dello stesso problema può fornire la soluzione dei problemi che in realtà altrimenti resterebbero irrisolti. Tradizionalmente in economia si fanno una serie di ipotesi semplificatorie che riducono i problemi ad un modello che è trattabile, più semplice, ma riteniamo che per molte ipotesi questo riduzionismo è arrivato a un livello eccessivo e quindi si è perso il vero contatto con ciò che la realtà veramente è. Si è visto poi che di fatto quasi nessuno degli economisti è riuscito a prevedere l'arrivo della crisi, o addirittura premio Nobel Paul Krugman ha detto che tutto ciò che si è stato studiato nella disciplina macroeconomica negli ultimi 30 anni è stato inutile nel migliore dei casi e addirittura dannoso se vogliamo vederlo nel peggiore dei casi. Quindi ci sono una serie di problemi che sono aperti nella disciplina economica, in particolare macroeconomica, in cui non si ha una chiara soluzione di questi problemi. L'approccio econofisico è un tentativo che appare ragionevole. La grande quantità di dati che è disponibile ora ben si sposa con la modellazione fisica, che ha una certa esperienza in tutto ciò. A questo punto, Stefano, ci fermiamo un attimo, ci andiamo ad ascoltare un piccolo pezzo musicale, poi torniamo in studio e poi, quando torneremo in studio, continueremo con l'analisi del contenuto di questo paper e soprattutto cercheremo di capire come mai l'econofisica è uno strumento molto utile per analizzare un fenomeno matematico-statistico come l'economia. A dopo. Ragazzi, se la realtà fosse così... Still alone. Oh, why don't you just come back? See how some friends just turn away from you. Still they don't understand you, and maybe they never will. So run now and feel how the truth will be unfurled. Run now and see how it's spread around the world. Look now, you have been searching all in vain. Still you want to quit the game. Oh, why don't you just go and play? See, you're not the only one. You will be walking in the sun, oh, forever and a day. You'll be falling for yourself. E siamo di nuovo in studio sulla coda di Falling for Yourself insieme al professor Stefano Baglietti, docente di sociologia, modellizzazione e simulazione presso il Politecnico di Zurigo, e insieme a lui stiamo cercando di capire che cos'è l'econofisica, un approccio fondamentale statistico per analizzare l'economia. Soprattutto con lui stiamo parlando dei contenuti di un paper intitolato Fundamental Real World Challenges in Economics, pubblicato qualche giorno fa su Archive, e insieme a lui nella prima parte della trasmissione abbiamo cercato di capire che cosa sono i principi cardine di questa cosiddetta econofisica. In questa seconda parte della trasmissione però vorrei cominciare un pochino da lontano, cioè cominciare da quello che diceva qualche annetto fa Adam Smith. Ecco, Adam Smith diceva che il sistema economico è un sistema che si autoregola. Bene, però se il sistema economico, come diceva Adam Smith, è un sistema che si autoregola, parlando alla cosiddetta casalinga di Voghera, come mai sono scoppiate le bolle finanziarie e soprattutto perché non erano state previste dagli economisti, cioè da coloro che in teoria dovevano conoscere meglio questi argomenti? Ok, allora, per rispondere alla signora casalinga di Voghera, potrei fare un esempio. Il sistema economico potrebbe essere il figlio della casalinga di Voghera che cresce e si autoregola. La casalinga di Voghera non deve fare niente a me, dovrebbe dargli da mangiare, ma il figlio, a parte questo, dovrebbe crescere normalmente. La casalinga di Voghera ha un compito importantissimo nel impedire o nel far sì che il figlio cresca, evitando alcune delle trappole in cui è facile incappare durante la crescita, cercare di indirizzarlo verso le giuste mete. Questo significa che di fatto il sistema economico si autoregola, sì, ma fino a un certo punto. È necessario che l'intervento umano, la regolamentazione, faccia sì che il sistema venga non controllato strettamente, ma guidato verso degli obiettivi che sono ragionevoli per il sistema e che possono essere fungere una sorta di attrattore per il sistema, che una volta indirizzato verso di essi praticamente può raggiungerli in maniera quasi automatica. Da questo punto di vista il sistema si autoregola. Quindi fondamentalmente esistono in tutti i sistemi complessi, come il sistema economico è per esempio, degli stati per cui il sistema viene naturalmente attratto verso di essi. E se si riuscisse a identificare quali sono, quali essi siano e come si formano, è possibile cercare di guidare il sistema verso di essi, verso quelli che sono benefici, e cercare di evitare quelli che sono dannosi per il sistema. Questo è molto comune in fisica, cioè sono numerosi paper scritti riguardo a questa teoria dei sistemi complessi, e l'econofisica cerca appunto di sfruttare questi approcci già presenti nei suoi sistemi complessi per creare l'economia e altri sistemi sociali. Mi spieghi quali tipi di errori avete trovato nei vecchi approcci usati per studiare il sistema economico, e quindi in sostanza in che cosa e in quali parametri il vostro sistema differisce dagli altri? Sì, nel nostro paper abbiamo identificato 10 principali punti deboli del sistema. Sono tutti importanti, ma potrei parlare per esempio di alcuni che sono chiaramente realistici, ma sono soltanto usati per modellare. Uno per esempio è il paradigma dell'homo economicus, in cui si prevede che ogni persona, fare le sue scelte quotidiane, possegga una quantità infinita di memoria, ovvero possa ricordarsi tutto ciò che è accaduto in passato, sia capace di calcolare istantaneamente qual è la sua scelta migliore date tutte le condizioni passate e le condizioni presenti, e cosa saranno le scelte fatte dai suoi vicini riguardo alla scelta. E questo è chiaramente realistico, dovrebbe essere tenuto in considerazione. Un altro esempio è il paradigma dell'agente rappresentativo. Questo è molto usato in economia, talvolta è inevitabile, però bisogna tenere in considerazione che quando si parla di agente rappresentativo si intende che tutti gli agenti si comporteranno nella stessa maniera, ovvero tutti avranno la stessa preferenza, quando in realtà sappiamo che il mondo è vario, è eterogeneo, ed è possibile definire almeno una certa classe, una certa lista di preferenze che cercheranno di massimizzare. Un'altra ipotesi che appare realistica è l'ipotesi di equilibrio dei mercati. I mercati non sono quasi mai in equilibrio, nel senso che non esiste un singolo equilibrio. La teoria classica, l'ipotesi di market clearing, predice che istantaneamente il prezzo di ogni azione contiene già tutta l'informazione possibile, e per questo non è possibile effettuare nessuna grande speculazione, cosa che è assolutamente non vera. Se il prezzo di un'azione fosse sballato, non in linea con l'informazione disponibile nel mercato, questo disallineamento sarebbe immediatamente azzerato dall'azione istantanea degli agenti che venderebbero o comprerebbero tale azione, almeno fino a quando il prezzo non ritorni in equilibrio. Quindi presumo che esiste questo equilibrio e che poi gli agenti siano in grado di determinarlo e di annullare lo squilibrio immediatamente. La difficoltà in questo approccio, come stiamo capendo, è quella di fare anche un certo ordine fra un enorme database di dati, e in questo ovviamente ci aiuta senza ombra di dubbio il cosiddetto data mining. Ce lo vorresti spiegare meglio che cos'è il data mining che analizzate anche nel vostro paper? Ok, il data mining è una tecnica che è stata largamente sottovalutata per lo studio dei sistemi economici. È possibile estrarre un grandissimo numero di informazioni semplicemente da internet o dai sistemi che offrono queste informazioni. Se solo potessimo raggrupparle in maniera sistematica, possibilmente in real time, ovvero in tempo reale, questo ci potrebbe fornire delle previsioni più o meno realistiche e concrete di ciò che sta avvenendo. Ci sono numerosi siti che già offrono una specie di giocattoli con cui si può vedere l'andamento delle news o di blog, quali sentimenti sono più diffusi sulla rete. Per esempio, c'è un sito che si chiama wefeelfine.org che offre in real time quali sono i sentimenti più diffusi per area geografica, per sesso, per la nazione, se cercano di correlarli con il tempo e queste cose. Chiaramente questo può essere applicato anche all'economia, soltanto c'è bisogno di credere in questi metodi, applicarli. Non sono attualmente finanziati in maniera larga dall'Agenzia Nazionale di Ricerca, però sono molto promettenti. Per esempio, è stato trovato di recente da un ricercatore americano, credo, mi sembra che sia americano, sì, una correlazione tra la quantità di messaggi scambiati sul social network Twitter e il grado di volatilità dei mercati finanziari. Quindi è possibile in effetti cercare di anticipare l'andamento di mercati finanziari basandosi su dati che prima venivano semplicemente non associati a questo tipo di variabili. Questo approccio è assolutamente necessario che venga esplorato. Ma alla fine esiste davvero una teoria che approcci razionalmente i problemi economici, oppure è impossibile farlo anche per l'econofisica, oppure è ancora oggetto di studio? No, la teoria definitiva non esiste ancora, è per questo che ci stiamo lavorando, altrimenti andremo a casa o in vacanza. Però abbiamo un progetto di ricerca serio e che possibilmente darà qualche frutto. Diciamo, parla di 10 anni di ricerca e pensiamo che durante questi 10 anni si possano fare molti progressi, e speriamo anche. Tutto quindi gira attorno al fatto che esiste quella cosiddetta variabile umana, che è molto variabile. Quanto è importante quindi il fattore umano, passami il termine, nel sistema che avete utilizzato? Assolutamente sono importantissimi. Non bisogna mai dimenticare che l'economia è fatta di persone, e le persone non sono mai una uguale all'altra, e nessuno pensa mai alla stessa maniera. Basta guardare il Parlamento italiano, non è un perfetto esempio. Come si fa a predire cosa succederà? Ci sono numerosi studi fatti da premi Nobel, in particolare Kahneman, per esempio, è stato uno dei primi a introdurre l'importanza della fattore umano all'interno della teoria economica. Per esempio, è stato dimostrato in alcuni esperimenti di laboratorio come i partecipanti a questi esperimenti possono dimostrare un livello di cooperazione molto maggiore rispetto a quello che è previsto dalla teoria economica, in cui tutti gli agenti siano perfettamente razionali e pensino soltanto al proprio interesse. E questo è un esempio di come il fattore umano debba essere tenuto in considerazione. Stefano, a questo punto ci fermiamo per un minutino, poi torneremo in studio e quando torneremo in studio ti farò quella che ormai comunemente è stata definita la domanda zainetto. A dopo. Grande Giove. Oh, she will find me in the darkest town. Night is bright when she is around. The sun shines when she brushes her hair. Daylight fades when she's not there. No matter where I go to, she is by my side. She wakes me up and pushes me when I try to hide. In any case, I learn from her every day. Even if I cannot see her, she's not far away. She is my guardian angel. Siamo a questo punto in conclusione di trasmissione insieme ancora al professor Stefano Baglietti, docente di sociologia, modellizzazione e simulazione presso il Politecnico di Zurigo, e col professor Stefano Baglietti all'interno di tutta questa trasmissione abbiamo provato ad affrontare gli argomenti dell'econofisica, uno strumento particolarissimo, molto razionale, per analizzare l'economia. Stefano, a questo punto ti farò l'ultima domanda, la domanda che ormai abbiamo definito la domanda zainetto. Quale delle tante cose che hai vissuto dal momento della stesura di questo paper al momento della pubblicazione conserverai nel tuo zainetto da ricercatore come bagaglio culturale per portartelo nelle prossime ricerche? Insomma, quale delle tante cose vissute salveresti per il tuo futuro da ricercatore? Beh, questo è stato il primo paper, quindi penso che a livello affettivo parecchio, a livello scientifico, questa analisi sistematica dei punti deboli di un sistema, in questo caso il sistema economico, l'importanza del fattore umano nelle decisioni quotidiane, come questo si rifletta nell'economia in generale, questo link tra una dimensione micro, umana, e come questo si rifletta nell'economia globale. Stefano, a questo punto ti saluto, ti ringrazio per la pazienza con cui hai risposto alle domande, saluto sia te, saluto gli ascoltatori di Cacciafotone e do come al solito l'appuntamento alla settimana prossima e l'augurio e come al solito ancora una volta di buona scienza a tutti. Ciao ciao! That pride. She's got no beginning and she's got no end, and in her very presence there is nothing to defend. She is my guardian angel. She cares about me when I'm down. She is my guardian angel. I'm so glad to know that she is around. She is my guardian angel. She cares about me when I'm down. She is my guardian angel. I'm so glad to know that she is around.